Oggi è 1° febbraio del 2023, ennesimo appuntamento dunque con prove tecniche che andrà avanti sino alle 22:30 circa. Thank you. Allora che poi ci sarà 25 o'clock. Prima di iniziare una serie di saluti, abbiamo Maya e Necrolocci in Sardegna, quest'ultima di Stigmate Hexagonal, Moschita de Miramar ad Harlem, Olanda, Cecilia Miradoli del progetto Pindar, Antonio Zoviet di Omicidio in quel di Firenze, Andrea Doro, una new entry che salutiamo, che credo ci stia ascoltando dalla Campania, che detiene il marchio di un progetto ambient dal nome Koyanis Nakoi, che presto ascolteremo da queste parti. Orlando Furioso, un saluto a lui a Torino, Doriana Panico a Taranto, Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico, Anna qui a Roma. Dopo Anna andiamo a salutare Daniele Santa Giuliana, Beh Test in Volto, Marco Milanesio di Disordine. Tiziano Zero Faninacci, Pi Greco, altra realtà romana, molto interessante, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Simona Scalisa di Ocaus, Valerio Michetti della Grazia Obliqua, non solo. Like Wake. Marcio Gronge, Enrico Cerrato di Petrolio. Giuseppe Verticchio di NIM, quindi molti all'ascolto e vi ringrazio. E noi andiamo subito ad iniziare col suo nominato Daniele Santa Giuliana, che oltre a deliziarci con Test in Volt, di tanto in tanto produce musica anche con il suo vero nome. In questa circostanza, un ultimo lavoro dal nome La Stanza sul Retro, cupissimo dark ambient per Daniele Santa Giuliana, e ci andiamo subito ad ascoltare, abbandonando le chiacchiere. Album che si apre con Pastorale, il secondo brano si chiamerà Notturno. Thank you. Lui è Daniele Santagiuliana, ordunque questa è la stanza sul retro, un lavoro uscito nell'ottobre del 2022 e leggo anche la dedica, memoria di Carraro Vinicio, non patrigno ma padre, morto nell'ottobre 2021. Quindi una dedica toccante e sentita evidentemente da parte di Daniele. Che più spesso abbiamo conosciuto in passato come testi in volto, e presto uscirà anche un altro lavoro con questa ragione sociale. Album che esce, questa è la stanza sul retro, attraverso Lunatics Productions. Cupo mesto, nero come la pece. Mi sembrano evidenti a livello inconscio le influenze anche dei Coil più oscuri, un progetto, una realtà che ha influenzato tanti artisti degli ultimi anni. Chi invece ha sposato, diciamo, più la causa del kraut rock, ma è una visione più, come dire, più psichedelica che mai è odierna, è Emito Kunst, un progetto ignoto, non si sa assolutamente nulla di questo personaggio, presumibilmente italiano. Incide per la Dissipazio di Nicola Quirigoni ed è giunto al suo secondo lavoro dal nome Post Exoticism. E questa sera ho scelto altre due tracce, 49 Days After Death e I Wait for the End. e parecchi minuti li abbiamo dedicati a Post Exoticism di Eimito Kunst, questo personaggio misterioso. L'unico nome che si può conoscere, a parte Nicola Quiriconi, factotum della Dissipatio, l'etichetta con cui esce questo album, c'è il lavoro al mixer di Simon Balestrazzi. Il resto è una particolare personale concezione di psichedelia, trasudante kraut rock da ogni poro, effettivamente. Il tutto reso anche più arcigno da una sensibilità più affine ai nostri giorni. Eimito suonava sintetizzatori, nastri magnetici, organo, come ci siamo goduti in queste ed altre tante tracce di questo album, la tromba, anche una voce che quella sbucava fuori tra le righe, Fields Recording naturalmente. Salutiamo Alessandra Mentana e da queste parti anche Valentina. Noi si va avanti. Naturalmente, tornando a Daniele Santagiuliana, il suo La Stanza sul Retro, ce lo ascolteremo anche nelle prossime settimane, già che saranno quasi tutte le tracce che andremo a mettere. Saluto anche Serena. E noi andiamo in Grecia. È intuibile che quando si parla di terre, diciamo, anomale dal punto di vista musicale, c'è di mezzo Raffaele Pezzella. Infatti qui abbiamo Anthology of Contemporary Music from Greece, un album che fa il punto della situazione sulla scena industrial, ambient, noise, proveniente per l'appunto dalla Grecia, con una serie di nomi praticamente sconosciuti al sottoscritto e che andremo a conoscere insieme. Compilation che esce nel 2022, anche questo, anche lo scorso anno è stato un anno particolarmente produttivo per la Anesple Sounds Group con label e anche le etichette parallele. Cominciamo con Sparagmos di Grim Machine e poi ci ascolteremo un esperimento al limite del canto bitonale da parte di Dimitris Sava con Disruption No. 5. Oh! Abbiamo cominciato dunque a conoscere questa compilation dedicata al suono sotterraneo della Grecia, Greek Music Survey, Anthology of Contemporary Music from Greece, Green Machine, Dimitris Sava, quest'ultimo con veri ipnotici risvolti, un andamento raggelante a dispetto della provenienza della Grecia, perché magari uno si fa un'idea di quel posto. La Grecia in realtà è molto, come dire, strutturata anche nel campo del gothic, dell'elettronica, del martial, del neofolk e quindi anche dell'industrial. Compilation che ci ascolteremo per la sua interezza nelle prossime settimane. Molti micromovimenti e glitches anche caratterizzano parte degli artisti presenti su questo compendio. E maestro a tal riguardo è sicuramente Alva Noto. È un po' che lo ignoravamo e quindi siamo andati a prendere il suo ultimo lavoro del 2021 dal nome Hybrid, naturalmente per la Noton, il buon Karsten Nicolai, tedesco. Hybrid Oval Hadron parte 2 e Hybrid Oval Random è quello che ci ascolteremo questa sera. le micro vibrazioni, le ristrutturazioni del suono, le destrutturazioni, le ricostruzioni di un suono adottato da Alva Noto in questo Hybrid. Al momento credo l'ultima fatica del 2021. .21:56, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. andiamo avanti e torniamo in Italia. Ernesto Brusati e Panico da palcoscenico, già lo ce lo siamo goduti un paio di settimane fa. Le inquietudini oscurissime di Agitato Cantabile, sua opera di esordio, e questa sera ci ascolteremo Depressione Endogena con Mistero e Bipolare ma non troppo con Alice Kundalini di She Spread Sorrow come preziosa ospite. Thank you.